ay dai beda mina golo golo mina aram venia mina golo golo mina aram bakani mina golo golo mina dos levenia mina golo golo mina dos levenia mina golo golo mina kani mina golo golo mina zuba garya mina mina mina miru bia walai mina golo golo mina banai kala mina golo golo mina banai kala mina golo golo mina mina golo golo mina lemon duro mina golo golo mina archi do akr mina golo golo mina ya quando avio mina golo golo mina ya quando avio mina golo golo mina Ascarrabia o mina, colo colo o mina, ascarrabia o mina, colo colo o mina, ascarrabia o mina, colo colo o mina.